Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento per questa settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, quindi nuovamente un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Qua parliamo, ahimè, di dolori, perché parliamo di lavoro che manca e parliamo di giovani che insomma il lavoro lo conoscono sotto varie forme, se vogliamo anche i più volonterosi ne fanno tanti di lavori e diversissimi nel tempo, perché uno fisso praticamente non ce l'hanno, no? E di questo parliamo, insomma, di lavoro e di giovani insieme a te. Sì, allora, come ha detto Francesco, purtroppo la situazione in Italia, soprattutto dei giovani, non è rosa. Quando ci sono da stilare delle classifiche, l'Italia risulta sempre negli ultimi posti o addirittura fanalini di coda dell'Europa, e se parliamo di giovani, parliamo di disoccupazione, di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che oggi risultano il 26% a casa o addirittura neanche inseriti in nessun programma di studio, quindi vuol dire a casa da scuola e anche a casa da lavoro. C'è un rapporto Noi Italia dell'Istat che spiega che nel 2013 si è avuto l'incremento più sostenuto. Sì, un dato che è stato pubblicato qualche giorno fa, addirittura la percentuale aumenta tra le donne, che sono il 27,7%, mentre gli uomini 24,4%, rispetto che nel 2013 è aumentato di quasi 2 punti percentuali, perché siamo passati da poco più del 25% a oltre il 26%, quindi siamo circa 1,5 punti. E tra le classifiche stilate appunto da questo studio di Noi Italia scopriamo che peggio di noi sta solamente la Grecia, e quindi se dobbiamo ragionare un po' su quella che è l'ambito di una comunità europea, certamente essere penultimi non è un risultato incoraggiante. Ecco, nella media dei paesi dell'Unione Europea la metà di questi giovani è in cerca di un'occupazione, con picchi di oltre il 70% in Grecia. Sì, questo è quello che viene detto dall'indagine, però se noi guardiamo un pochino anche l'Italia, vediamo come al sud addirittura anche noi superiamo il 42%, abbiamo certamente la Sicilia, la Campania, la Calabria e la Puglia, che anche queste hanno quasi la metà dei giovani addirittura a casa. Poi ricordiamoci che se da un lato si parlano di disoccupati o di persone che non lavorano, dall'altro ci sono sempre anche chi sono rimasti a casa perché magari l'azienda ha chiuso, ma ci sono anche chi rientra nella categoria scoraggiati e che il lavoro proprio ha smesso di cercarlo. E qui ricordiamo come a livello nazionale l'Istat ha dichiarato che l'occupazione, malgrado gli ultimi interventi in approvazione in corso in queste ore alla Camera e al Senato, ci sono circa più di 13 punti percentuali, per quasi l'equivalenza di 6 milioni di persone che sostanzialmente non producono più, oppure sono in cassa integrazione, oppure stanno finendo la disoccupazione, e quindi una situazione veramente che rischia di sfuggire, secondo me, di controllo. Ecco, staremo a vedere se con le nuove regole, il Job Act, e magari anche con una, speriamo, ripresa dell'economia in Europa, insomma, questi numeri possano decisamente scendere. Uno su quattro giovani che non ha un percorso né scolastico né formativo e neanche un'attività lavorativa, poi tutti quelli che, come dicevi tu, non cercano più lavoro, ce l'hanno così magari un po' in nero qualche stage e qualche cosa di questo genere, effettivamente sono numeri che fanno rabbrividire, che lasciano un quadro abbastanza desolante. Sì, poi io dico anche, Francesco, che in questa situazione purtroppo abbiamo avuto modo di verificare, analizzare alcuni ulteriori dati, e bisogna veramente capire come neanche più una laurea oggi ti può aiutare a risolvere i problemi rispetto a quello che magari una volta sembrava fosse un automatismo. Addirittura era capitato un articolo dove si diceva come la laurea in certe situazioni può anche diventare discriminante. Quindi una situazione che sicuramente non va a incentivare neanche chi magari ha terminato un percorso formativo, ma dall'altra non va neanche a investire sui giovani, perché poi le aziende in questo momento non fanno fatica a investire sulla formazione, sui nuovi assunti, e purtroppo si cerca di guardare sempre con maggiore attenzione e speranza quelle che sono le opportunità che provengono dall'estero rispetto a quelle che abbiamo in casa. E certamente molte famiglie che si trovano anche nella condizione di avere questi ragazzi che ormai sono addirittura prossimi ai 30 anni, che fondamentalmente stanno perdendo anche di competizione, non sono più appetibili sul mercato, perché poi quando si rimane fuori dai giochi si fatica anche a rientrare con maggior disinvoltura rispetto magari a un giovane che, terminata la scuola, certamente è più entusiasta. Quindi certamente non è una situazione molto incoraggiante, e che speriamo che questi interventi possano dare un'inversione di tendenza, perché poi noi stiamo commentando dei dati del 2013, ma quelli del 2014 sono ancora peggiori. Ecco, quindi adesso sorrido, ma come dice un famoso film di Troisi, non ci resta che piangere, verrebbe più facile. Grazie quindi a Carlo Garofolini dell'Adico, l'appuntamento è rinnovato la settimana prossima. Grazie a te Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.